Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio e buona Pasqua a tutti. Naturalmente Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia per una giornata di campionato che, beh, forse aveva ragione Allegri, tra poco ve lo faccio anche riascoltare. Per noi sarà la partita del campionato, ha detto ieri Allegri riferendosi alla gara che il Milan deve giocare alle 19 a Brescia. E aveva visto lungo, perché alla luce dei risultati di oggi, dove che testimoniano come molte squadre stanno finendo o forse hanno finito la benzina per il Milan, potrebbe essere l'allungo decisivo. Giornata di verdetti, almeno il primo ufficiale del campionato ce l'abbiamo, ed è la retrocessione, peraltro con tutti gli onori del caso, perché il Bari secondo me ha giocato una grandissima stagione, una stagione di grande orgoglio, però perde in casa con la Sampdoria. Il gol di Pozzi al 13° del secondo tempo su rigore. Sampdoria che oggi ha giocato la miglior partita probabilmente della gestione cavasina, ha meritato questo successo che la rilancia un pochino in chiave salvezza, e questo è il primo verdetto definitivo. E poi è successo davvero di tutto con l'Inter, che ha vinto 2-1 con la Lazio, ma che è andata sotto di un gol e di un uomo dopo 22 minuti per il fallo da rigore di Julio César su Zárate lanciato a rete. Espulsione del portiere brasiliano dell'Inter, rigore trasformato dallo stesso Zárate, e a quel punto l'Inter sembrava davvero in un buco. È riuscita ad uscire con grande carattere, perché bisogna dirlo, ci sono state grandi contestazioni, non ne ho capito bene i motivi, ma da una parte e dall'altra, nei confronti dell'arbitro Morganti, con una pagnolada abbastanza comica da parte dei tifosi nerazzurri. Comunque l'arbitro nulla c'entra in questo successo, io credo, dell'Inter. 40esimo, ecco, contestata questa punizione al 40esimo del primo tempo che ha portato al pareggio di Snyder, punizione magnificamente tirata dall'olandese, con Muslera sempre un po' incerto, almeno non esplosivo, mettiamola così, anche in questa occasione. Si va all'intervallo sull'1-1, all'ottavo della ripresa c'è un lancio da centrocampo di Zanetti, anche qui abbastanza comica la scivolata di Biava che spalanca la porta a Eto'o, che salta Muslera e deposita in rete il pallone del 2-1 che completa la rimonta. Eto'o non segnava da 6 partite, quindi torna al gol, è il 20° per lui. Al 21esimo della ripresa invece è ristabilita la parità numerica per un fallo da dietro di Mauri su Nagatomo, si termina 10 contro 10 con l'arrembaggio della Lazio. Tra l'altro Castellazzi, che è entrato in occasione dell'espulsione di Julio César al 22esimo del primo tempo, gli ha ceduto il posto Milito. Castellazzi si è fatto male subito e quindi l'Inter ha giocato per lunghi minuti in inferiorità numerica con un portiere che aveva la coscia fasciata e che certamente non stava bene. La Lazio va vicino al pareggio al 30esimo con traversa di Kozak, ma non riesce a schiacciare più di tanto l'Inter nella sua area. L'Inter controlla questa gara ed è un successo importantissimo, perché permette ai nerazzurri di tornare secondi e di scavalcare il Napoli, che, a proposito di quelli che di benzina non hanno più tanta, perde in anella la seconda sconfitta consecutiva, in questo caso a Palermo. Curiosamente simile qui l'andamento della gara rispetto a quella di San Siro, perché il Napoli va in vantaggio dopo soltanto 2 minuti, primo gol del pomeriggio, su rigore, anche in questo caso mani di Cassani ad anticipare Cavani, lo stesso Cavani segna il rigore che porta in vantaggio il Napoli, che però forse si illude di aver fatto il più, invece niente, il Palermo rimonta con il gol di Balzaretti, bellissimo, al 38esimo sinistro al volo su cross di Cassani. Al 41esimo anche qui nervi abbastanza fior di pelle, fallo di Pazienza su Bacinovic, Pazienza già ammonito, Deglio Rossi ne chiede l'espulsione e invece si becca lui stesso il cartellino. Al 45esimo del primo tempo il gol di Nocerino, anche qui il gol del Palermo del raddoppio su rigore, anche qui un episodio che si può discutere, con D'Amato che non concede una regola del vantaggio che sembrava netta, in quel caso Nocerino va in gol, invece l'arbitro aveva già fischiato, dà il calcio di rigore, Bovo lo trasforma, per fortuna, se no vi lascio immaginare le polemiche che ci sarebbero state. Il Palermo legittima completamente la sua vittoria nella ripresa, andando in tantissime occasioni, ispirato da Pastore, oggi tornato ad altissimi livelli. Sfiora il gol a ripetizione, il gol del 3-1, non riesce a chiudere la gara, ma comunque vince questa partita, da ricordare un palo di Abel Hernandez, ma tantissime, ripeto, le occasioni da gol del Palermo contro un Napoli che oggi davvero ha dimostrato di non averne più tantissima. In questo quadro il suicidio di giornata è quello dell'Udinese che proprio a Napoli domenica scorsa si era riaperta le chance di Champions League, oggi aveva a portata di mano l'occasione di scavalcare la Lazio, tornare da sola al quarto posto e chissà cos'altro sarebbe successo, invece perde in casa con il Parma. 2-0 al tredicesimo il gol di testa di Amauri, mezza papera di Belardi su quel colpo di testa di Amauri, peraltro in posizione molto sospetta, anzi era per questione di centimetri, però in posizione irregolare l'attaccante italo-brasiliano del Parma. Fatto sta che il Parma passa in vantaggio e l'Udinese perde Inler al ventunesimo. Fallo su Giovinco, cartellino giallo estratto dal discusso Valeri, discusso almeno da Pozzo, vi ricordate le polemiche dopo la designazione? Beh, non era così opportuno, aveva detto Pozzo, designare un arbitro romano per questa partita, visto che siamo in lotta proprio con le romane per la Champions League. Ebbene, fallo di Inler su Giovinco, ammonizione, proteste che non mi sono sembrate nemmeno eccessive, ma difficile dire cosa abbia spifferato Inler a Valeri, che estrae il cartellino rosso. L'Udinese resta in 10 dopo 21 minuti, nel secondo tempo ci prova, ma anche qui dà la sensazione di non aver tantissima energia, e al 47esimo, quindi al secondo minuto di recupero, Amauri riesce a timbrare il secondo cartellino. Il Parma, dopo aver battuto l'Inter, batte anche l'Udinese a Udine ed è lanciatissimo sulla via della salvezza. Poi, tra le pieghe di questa emozionante giornata, anche il Genoa che dà una mano, una grossa mano ai cugini della Sampdoria, perché batte 4-2 il Lecce, come sempre abbastanza cicalesco, perché segna ma subisce sempre un sacco il Lecce di Cagno, forse troppo per squadre che devono lottare per la salvezza. Il Genoa batte 4-2 il Lecce, che pure era andato in vantaggio dopo 3 minuti con un bellissimo gol di Di Michele, tiro a giro di sinistro per il vantaggio leccese, dura 7 minuti perché al decimo Floro Flores sul filo del fuorigioco riesce a segnare il gol dell'1-1, al trentesimo di nuovo Lecce in vantaggio e di nuovo Di Michele con una difesa del Genoa quantomeno rivedibile su un calcio d'angolo, un colpo di testa di Munari che riesce a prolungare per Di Michele da solo sul secondo palo, 2-1 per il Lecce. E poi Palacio in mischia per il 2-2 prima che finisca il tempo, al 43esimo nella ripresa il Genoa allunga, nono Palacio di testa sul primo palo, anche qui difesa del Lecce che concede tantissimo, troppo secondo me, 17esimo Floro Flores su cross di Criscito e Genoa che batte Lecce 4-2. Grandissimo passo avanti verso la salvezza anche per il Cesena, 2-0 a Bologna, i gol di Giaccherini e Malonga, terzo e 39esimo della ripresa. Contava poco, pochissimo in termini di classifica, Cagliari-Fiorentina, finisce 2-1 per i Viola, al 46esimo del primo tempo segna Cerci, portando in vantaggio i Viola, il pareggio di Cossu con un magnifico sinistro in corsa al primo della ripresa, al quinto, quindi 4 minuti dopo, di nuovo gol di Cerci, 2-1 per i Viola, sentiamo Reia con Sky. Guardate, alla fine Rocchi, abbiamo avuto delle opportunità, non le abbiamo sicuramente sfruttate, perché abbiamo fatto una buona gara, come ci succede ultimamente. Ho alzato il ciglio perché ho visto il Napoli, perché se considero la partita che abbiamo fatto noi a Napoli 3 settimane fa, che non meritavamo certamente di perdere, a quest'ora era la nostra portata, insomma. No, vabbè, ma comunque è un finale di campionato, direi entusiasmante, perché non sono stati fatti ancora i giochi per quanto riguarda la Champions, è ancora tutto da vedere. Andrea Pavelli. Questo è di Reia, ha ragione, i giochi sono ancora tutti da fare, a questo punto si tratta di capire chi di benzina ne avrà ancora, e rientra in corsa anche la Roma che oggi ha battuto 1-0 il Chievo, gol di Perrotti in apertura, 1-0 per i giallorossi, aspettando la Juventus, che io credo che la Juventus sia tagliata fuori grosso modo dalla lotta per la Champions League, però ha la possibilità di avvicinarsi e chissà che le riesca uno sprint, però ne ha davvero troppe davanti. Juventus che chiuderà questa giornata alle 21 con il Catania. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi torniamo qui. 800240024 per commentare questo turno dell'uovo di Pasqua. Ripeto, 800240024 per intervenire, per commentare questa giornata di campionato. Io ho detto, credo abbia ragione Allegri nel dire che il Milan ha il match ball alle 19 a Brescia, non so se siete d'accordo. Intanto vi leggo la classifica così come aspettando le gare del Milan e della Juventus. Milan 71, a questo punto l'Inter come detto torna seconda a 66, scavalcando il Napoli che resta ormai da due turni a quota 65. Ferma anche la Lazio a 60 e l'Udinese a 59. Si muove invece, fa tre passi la Roma che sale a 56, la Juventus ne ha attualmente 52, quindi Palermo 50, Fiorentina 46, Genoa 45, Cagliari 44, Bologna 40, Chievo 39, Parma 38, Cesena 37, Catania 36. Terz'ultime insieme, ma per effetto dei gol segnati, ai confronti diretti, eccetera, quart'ultime. In questo momento sarebbe salva la Sampdoria, sono conti molto virtuali. Sampdoria e Lecce sono a quota 35 entrambe, il Brescia ne ha 30, il Bari 21 ed è già retrocesso. Vale la pena dare un'occhiata, così fate anche due conti, al prossimo turno, che pure sarà molto molto molto importante. Sabato si comincia alle 18 con Cesena-Inter. Alle 20.45 il Napoli riceve, dopo due sconfitte consecutive, un Genoa che però sarà corto di uomini, perché oggi diversi diffidati sono stati ammoniti e sono andati in automatica squalifica dunque, quindi il Genoa che avrà problemi di organico, non certo di classifica. Poi domenica si gioca nel pomeriggio Milan-Bologna, c'è un Sampdoria-Brescia che è un confronto diretto caldissimo in zona retrocessione. E chiuderà il programma lunedì 2 maggio nel posticipo Lazio-Juventus, che pure rischia di essere estremamente interessante per la corsa verso il quarto posto. Mi segnala Giorgio De Luca, prontamente dalla regia, che il Genoa sarà senza Milanetto e Palacio oggi migliore dei rossoblù in campo domenica a Napoli. Sto rivedendo il gol di Eto'o in contropiede, gol che ha condannato la Lazio, ma da vedere anche lo scivolone di Biava, che ha aperto la porta di Eto'o su un lancio da centrocampo di Zanetti, su cui la chiusura di Biava è mancata e Eto'o è riuscito ad andare in porta praticamente con il pallone. Vediamo cosa dice Reia. Continuare, l'ho detto prima, a giocare come abbiamo giocato fino all'1-0, invece lì e abbiamo perso un po' le posizioni, sapevamo che loro poi spingevano sulle zone laterali, non siamo stati molto attenti perché abbiamo cambiato anche posizioni in campo, cosa che non avevo chiesto assolutamente. Probabilmente dal punto di vista tattico ci è mancato quell'equilibrio che abbiamo avuto all'inizio di gara, e queste sono cose che non devono succedere. Grazie. Questo è di Reia, c'è chi manda un messaggio: Del Neri è il peggiore degli ultimi anni, a Firenze doveva solo vincere anche rischiando di perdere, invece si è accontentato del pareggio, ora la Juve poteva essere a meno 3 dalla Champions con uno scontro diretto da giocare, spero ovviamente lo caccino, scrive Maurizio, evidentemente juventino deluso. Certo è stata pessima la partita della Juventus a Firenze, ma ne abbiamo già parlato domenica scorsa. Detto questo, secondo me per la corsa verso la Champions League si tratta di capire chi di benzina ne ha ancora, guardando l'andamento del Napoli nelle ultime gare, dell'Udinese stessa che oggi, non dimentichiamole, ha la terza sconfitta nelle ultime quattro partite e l'unica gara di queste quattro ha vinto proprio a Napoli, spegnendo i sogni dei campani. Delio Rossi con Sky, ma perché l'hanno mandato via io non lo capirò mai. Oggi Palermo ha giocato un'altra gara meravigliosa, sentiamolo. Sempre rimpianti. Il problema è che il campionato non è finito e le valutazioni o i bilanci si faranno bocce ferme. Ha detto dopo il gol del pareggio di Balzaretti, è entrato addirittura in campo per andare a dire qualcosa all'orecchio di Pastore, insomma si era innervosito per che cosa? No, che... Noi proviamo la partita in una certa maniera, quando un giocatore non lo fa e non riesce a sentirmi io mi arrabbio, perché, e infatti sono stato espulso per andare a dire una cosa a Pastore. Io sono una persona che non insulta mai nessuno, non sputa, non ce l'ha mai con l'arbitro, non ce l'ha mai col quarto uomo, però mi sembra sbagliato sto fatto qui, anche perché bisogna conoscere anche le persone, però vedo che invece altre persone che si comportano in un'altra maniera finiscono regolarmente la partita, si vede che sono più furbi di me. Riferimento? Tutti. Sì. Dario. Grandissimo, al solito Delio Rossi, che qualcuno, qualche ben informato, vede già sulla via di Firenze, secondo qualcuno, allenerà l'anno prossimo la Fiorentina e Zamparini se lo merita di perdere un allenatore così. Mi ha raggiunto, a sorpresa, ma io lo sapevo, sarà una sorpresa per voi, il mio amico Giuseppe Cruciani, dalla Zanzara e molto altro. Ciao Giuseppe. Ciao Carlo, ciao. Reduce da San Siro. Solo per te. Solo per me, ti voglio bene. Adesso sono curioso di sentire se tu e Giovanni Capuano, che eravate entrambi allo stadio, avete visto la stessa partita. Dimmi che partita hai visto tu, tanto per cominciare. Una partita che la Lazio ha buttato via, perché era in controllo totale della partita fino all'espulsione. Dopodiché, secondo me, Rey ha gestito male l'uomo in più, non togliendo, ma naturalmente sono discorsi che si possono fare dalla tribuna, comunque non togliendo uno dei quattro giocatori offensivi che aveva, lasciando campo all'Inter. L'Inter ha pareggiato, poi c'è stato quell'episodio nel secondo tempo che ha determinato tutto, perché la Lazio, dopo quell'infortunio di Biava con il gol di Eto'o, è praticamente, non dico scomparsa, ma insomma ha risentito molto di quella, di quell'episodio sfortunato. Ma direi che la Lazio la partita l'ha persa non sapendo gestire bene l'uomo in più. Giovanni Capuano, invece tu che partita hai visto? Ma no, io non posso che sottoscrivere il fatto che la Lazio l'abbia buttata via, perché del resto sopra di un gol in superiorità numerica contro una squadra palesemente stanca già in partenza, e che non solo all'inizio del secondo tempo di fatto in campo era in 9, perché l'Inter ha dovuto continuare a far giocare Castellazzi, che pure era acciaccato, Eva Schneider che stava male, in un'occasione addirittura ha lasciato il terreno di gioco per tornare negli spogliatoi. Insomma, era una squadra assolutamente in difficoltà. La Lazio così non è stata capace di controllare, di chiudere la partita. Io non credo tanto per non aver tolto uno dei quattro davanti in più, quanto proprio per aver rinunciato a continuare a fare quello che aveva fatto benissimo nei primi 20 minuti, cioè continuare a puntare i difensori dell'Inter, metterli in difficoltà e creare situazioni che alla lunga poi avevano portato Ranocchia a sbagliare, quindi Zárate a trovare l'occasione del rigore per l'1-0. L'Inter questa partita l'ha rimessa in piedi, è stata un Inter abbastanza simile nello spirito a quello della scorsa stagione, cioè quella che riusciva poi ad aggrapparsi a qualunque episodio per provare a ribaltare la partita. L'episodio è stato il calcio di punizione di Schneider, che ha regalato all'Inter l'1-1. Ti dico che in ambiente Lazio c'è molto malumore per la direzione di gara di Morganti, si contesta il contrasto che ha portato al calcio di punizione di Schneider, si contesta l'espulsione a Mauri nel secondo tempo, un rosso che viene definito un po' fiscale. C'è stato nell'intervallo un duro confronto in tribuna fra Lotito e il designatore Braschi. Lazio che parla molto di questo, anche se in realtà ho sentito prima Reia giustamente concentrarsi più sull'occasione buttata via di una squadra che se finisse adesso il campionato sarebbe quarta, però si gioca molto nelle prossime due giornate contro Juventus e Udinese. La Juve potrebbe salire a 5 punti, l'Udinese è sotto di 1, la Roma è risalita fino a 4 punti, insomma deve stare anche attenta. Sì, Giovanni, io più che altro ho visto in tribuna, ero praticamente accanto sia al presidente Moratti che al presidente Lotito, ho visto soprattutto il pubblico dell'Inter e i dirigenti dell'Inter a un certo punto scontenti dell'arbitraggio per qualche fallo fischiato male, forse per l'espulsione che di cui si può discutere, l'espulsione di Julio César. Detto questo, sugli episodi principali della partita, che sono i due episodi principali, cioè espulsione di Julio César e espulsione di Mauri, credo che l'arbitro, che forse non ha gestito poi nel complesso la partita bene, credo che abbia visto giusto in tutti e due gli episodi. Devo sottolineare un gesto molto brutto che ho visto in campo, e credo che sia stato sottolineato anche dalle telecamere, ma non lo so, e mi sorprende perché viene da un giocatore di grande esperienza e soprattutto di grande correttezza come Cambiasso. Cioè a un certo punto, in una delle punizioni che secondo l'Inter non sarebbero state concesse dall'arbitro, Cambiasso ha praticamente invitato il pubblico, indicando l'arbitro con le mani, a prendersela, a fischiare, a fare quella che poi è diventata una sorta di gazzettata, perché gli spettatori, la pagnolata rosa. Sì, la pagnolata rosa. Devo dire che è stato un gesto non particolarmente grave, naturalmente, però sai, Cambiasso è un giocatore molto corretto, e invitare il pubblico, perché ha sia invitato il pubblico a contestare l'arbitro, e poi lo ha anche indicato l'arbitro, cioè non era come invitare il pubblico a sostenere la squadra. Di solito i giocatori fanno dei gesti così con le mani per invitare il pubblico. Era proprio un gesto diretto contro l'arbitro. Quello penso che sia stato un gesto veramente scorretto da parte di un giocatore che di solito non fa queste cose. Guarda, io non ho colto questo gesto, non avevo a disposizione una telecamera, e quindi però devo dirti che ho presente il momento, e Cambiasso ha fatto un po' il Mourinho. In fondo la forza dell'Inter nelle ultime 2-3 stagioni era proprio quella di riuscire ad attaccarsi a degli episodi per cambiare il clima psicologico di partite che si stavano mettendo sì, male. Sì, no, oggi, ma... oggi è successa la stessa cosa, probabilmente Cambiasso si è incaricato di fare quello che in questo momento in quella squadra in pochi possono fare, può farlo Zanetti con certe giocate, lo può fare lui, l'ha fatto in questa in questo modo che tu... No, ma assolutamente, guarda, nel complesso io dico che hai perfettamente ragione quando dici che è sembrata una delle partite da Mourinho, cioè una delle partite di Inter da Mourinho in cui non si merita di vincere, però alla fine se vai a vedere la grinta che ha messo l'Inter, il fatto che ha rimontato a 10 contro 11, come tatticamente l'ha impostato dopo la supremazia dell'uomo della Lazio, credo che alla fine insomma non mi sembra un furto, ecco. No, lo è, ma soprattutto è una vittoria molto importante per l'Inter, sì, che a un certo punto se facevi con l'ologramma della classifica era rischiava il preliminare, perché il Napoli stava comunque vincendo a Palermo e andava così. Giovanni, ti ringrazio. Grazie a te. Grazie Giovanni. No, questa contestazione a Morganti, hai fatto bene a citare quel gesto di Cambiasso che anch'io non ho visto attraverso le telecamere, che non è stato particolarmente evidenziato, magari lo sarà stasera. Contestazione all'arbitro che mi sembra abbastanza misteriosa, ma da una parte e dall'altra, perché non mi pare che Morganti abbia inciso no, su questa partita. Sulla punizione del pareggio dell'Inter si può discutere naturalmente, andandola a vedere ci può anche stare, perché c'è una leggera spinta di Biava che cerca di resistere allo sfondamento di Eto'o. Credo che l'Inter abbia protestato in precedenza per alcuni falli non concessi a Eto'o stesso e altri episodi di questo tipo. Ripeto, cose che ci possono stare. Non è sembrato in controllo della partita a un certo punto. E forse l'espulsione di Mauri, che ci stava naturalmente, è stata anche un po' condizionata dal clima pesante che c'era. Non so se in una situazione diversa l'avrebbe espulso. Comunque tecnicamente ci sta, perché scalci a terra, da terra, un giocatore. Secondo me l'espulsione di Mauri ci sta, quella di Julio César possiamo discutere, che c'era Ranocchia che stava rinvenendo. Sì, però è un attaccante che supera il portiere quasi sempre espulso. Sì. No, ma infatti sono due episodi abbastanza chiari. Il Napoli ha finito la benzina, secondo te? Non lo so, penso di sì, ma era... Ieri inutilmente polemico, peraltro. Ma sì, Mazzarri è sempre polemico quando perde. Ma anche prima di giocare, quelli del Nord... Sì, quelli del Nord che mettono in giro le voci sul mio possibile trasferimento, sì, non so dove. Ringraziare, no? Ma no. Sì, insomma, non credo... il campionato del Napoli è stato schizofrenico da questo punto di vista, cioè quando proteste, poi momenti invece di esultanza, o comunque momenti di grande entusiasmo per la posizione in classifica, poi ancora proteste. D'altra parte Mazzarri viene chiamato Lamentino, non a caso. Leonardo non viene chiamato Lamentino? No, lui no. Magari in qualche altra maniera. Sentiamolo con Sky. Ciao a tutti. Sì, io volevo sapere, insomma, da Leonardo, che adesso si è allenato anche a non perdere la voce in pomeriggi così emozionanti, perché carichi di tante azioni e di un risultato che è prezioso. Se lo ritieni il risultato più importante per la qualificazione alla Champions League diretta con questa vittoria nello scontro diretto con la Lazio? No, per la situazione un po' sì, però per arrivare qua in questa situazione sicuramente sono stati risultati molto importanti, no? Sono tante vittorie, diciamo, in campionato che ci ha portato a questa situazione. Oggi addirittura siamo secondi in classifica, no? Però credo che mantenere questa continuità di risultati in campionato, dove tutti gli altri hanno un'alternanza incredibile di risultati, basta vedere la giornata di oggi quanto è inaspettata, no? Può succedere di tutto, ci mancherebbe, però inaspettata come risultati, sicuramente è una cosa molto molto positiva. Io oggi è una vittoria particolare. Secondo te cosa attiva? Questo è Leonardo, adesso ci fermiamo un attimo, poi io e Giuseppe Cruciani vi aspettiamo qui, è 800 24 00 24. Secondo te il Milan ha vinto lo scudetto? Il Milan si è vinto lo scudetto? Mi hai preso di sorpresa, mi stavo levando le cuffie. Bah, sì, ma è solo la matematica che manca. Sì, Sta per arrivare Paolo da Napoli. Intanto io a Giuseppe Cruciani, che oggi è qui e che ringrazio moltissimo, chiedo, ecco, ti aspettavi che la... magari siamo un po' maliziosi, che il Genoa desse tutta sta mano alla Sampdoria, perché battendo oggi 4-2 un Lecce, che io te l'ho detto molte volte fuori di qui, sì, concede troppo per essere una squadra che si salva. Anche oggi è andato in vantaggio due volte e alla fine ne ha beccati quattro e ha perso. Siamo sempre abituati a pensare male nei finali di campionato, avendo spesso ragione, però è anche vero che mancavano fino ad oggi sei partite. Per cui, insomma, pensare che il Genoa, per mandare in Serie B la Sampdoria, o comunque per mettere in difficoltà la Sampdoria, pensare che poteva lasciare strada libera al Lecce, questo francamente era un ragionamento un po' assurdo. L'ho sentito da qualche parte, soprattutto tra i tifosi genoani, però penso che giustamente si sia comportato in maniera in maniera corretta il Genoa nei confronti, del campionato. Insomma, non c'era nessun motivo, anche perché il Genoa è vero che era salvo, ma può anche sperare con 3-4 vittorie di ottenere un posto in Europa League o no? Sì. È troppo tardi? No? Forse cioè, è troppo tardi, naturalmente. È troppo tardi, poi bisogna anche capire l'Europa League a chi interessa davvero. Comunque, in ogni caso, per fortuna ancora di questa situazione non abbiamo visto. Ne vedremo. Sì, beh, magari qualcosa in giro c'è stato. No, per adesso no, diciamo così, così clamoroso no, perché insomma i giochi ancora sono aperti per quasi tutti. Paolo da Napoli, buonasera. Salve, buon pomeriggio. Dica. Niente, chiamavo riguardo a Napoli, senza fare critiche, volevo fare solo un plauso a questa squadra, perché quest'anno ha dimostrato e ha disputato un campionato bellissimo, ci ha tolto tante soddisfazioni, quindi ci possono stare due sconfitte con due squadre molto positive, quindi... È la prima volta, tra l'altro, che Napoli perde due partite consecutive. Sì, ne ha perse. Beh, è anche vero che l'Udinese ha perso tre delle ultime quattro, vincendo soltanto a Napoli. L'Udinese, grande stagione, però sembrava essersi fermata. Il Palermo. Dica. Contro il Napoli, tutti danno il 101%. Sì, contro il Napoli, contro la Juventus, contro l'Inter, contro il Milan. Non solo contro normale. Il Napoli. Io più che altro, guardando oggi, onestamente il Napoli è stato preso a pallonate nel secondo tempo oggi dal Palermo, e tutte le volte che vedo degli orossi dico, ma perché Zamparini l'ha cacciato via? La follia assoluta, se no il Palermo guarda che arriva in Champions League. No, questo non lo so, però la storia di Delio Rossi con Zamparini è tipica del carattere che conosciamo del presidente Zamparini, che credo che si sia pentito alla grandissima di quello che ha fatto. E soprattutto quei momenti in cui è convinto che la cacciata di un allenatore gli possa portare chissà che cosa, cioè, poi cambiare, so detto con tutto rispetto, ma cambiare Delio Rossi con Serse Cosmi, con tutto rispetto per Serse Cosmi, già dall'inizio era una follia, nonostante poi il fatto che Serse Cosmi abbia vinto una partita col Milan, ma poi ne ha perse altre due. No, ma poi senza alcuna ragione, non c'era alcuna ragione di mandare via Delio Rossi al di là di quella sconfitta, ma sì, che è talmente surreale da non essere rilevante una sconfitta di quel tipo. Giovanni Di Marco da Palermo, buongiorno. Sì, buon pomeriggio a voi. Confermi che il Napoli è stato preso a pallonate dal Palermo nel secondo tempo o no? Ma guarda, dopo il vantaggio, direi anche per buona parte del primo tempo, il problema è davvero giocato una grandissima partita. Il Napoli pian piano si è innervosito perché non riusciva a quello che solitamente riesce a fare. Secondo me è mancato molto l'assenza di Lavezzi, si è sentita parecchio. Cavani non ha mai inciso, ha ricevuto anche pochi palloni giocabili per la verità. Dall'altra parte invece un Palermo che ha sbagliato pochissimo, poteva finire anche 3-4-1, cioè il Palermo nel secondo tempo il 2-1 ha sbagliato almeno tre grandissime occasioni, ha colto un palo, Hernandez ha sbagliato un gol facilissimo, per cui insomma vittoria assolutamente meritata e per me è una vittoria di Del Rossi questa, perché insomma la squadra è tornata a giocare in un certo modo con il suo ritorno e non può assolutamente essere un caso. Straordinaria partita di Pastore, mi è sembrato. Sì, confermo, Pastore insomma ha giocato davvero molto molto bene, non ha fatto gol, poi alla fine gli è toccato anche consolare tra virgolette Hernandez, perché gli ha dato un pallone su un piatto d'argento. Hernandez, che fa gol da posizioni impossibili, ha tirato un calcio di rigore in movimento e ha mancato la porta, e alla fine praticamente sotto la curva gli è toccato anche consolarlo. Insomma, una scena molto carina che testimonia quanto i due siano davvero molto molto amici, ed è una squadra questa molto giovane, insomma ci sono le basi per poter costruire qualcosa di importante. Adesso bisognerà vedere insomma a fine campionato chi rimarrà, chi andrà via, se Fa e cosa disfa Zamparini. Napoli lo perde ufficialmente, insomma, possiamo dirlo, no Carlo, che stasera è meglio che non si parli più di scudetto ma di secondo posto. Sì, no, ma la corsa no, lo sapete da Giovanni posto. Se erano confermate le voci che c'erano nella scorse, che erano circolate nei giorni scorsi, su possibile arrivo l'anno prossimo a Palermo di Torrente. Guarda, io se devo indicare un favorito in questo momento faccio un altro nome, che è quello di Gianluca Azzori. Torrente è un'idea, però è anche un'idea diciamo che può essere azzardata, considerate che Palermo è a 2 punti dal 7° posto, che può significare Europa League. Palermo è ad 1 passo dalla finale di Coppa Italia, che può significare Europa League. Sì, una squadra giovanissima, un tecnico che non ha grandissima esperienza, potrebbe essere un azzardo. Beh, non è che Azzorri ne abbia poi di esperienza così ad alto livello. Giovanni, io ti ringrazio perché devo sentire Lamentino Mazzarri, come l'ha chiamato Cruciani. Mazzarri, con Sky. Probabilmente meritavamo il pareggio alla fine, non siamo stati bravi a pareggiare. Niente, ci sta, stiamo facendo un campionato eccezionale e va bene così. Più 5 sulla Lazio e più 6 sull'Udinese. Tu dici ogni volta, ogni partita è importante, fa storia a sé, ma probabilmente quella che giocherete tra 6 giorni contro il Genoa può rappresentare la pietra angolare del vostro campionato. Ci si aspettava una reazione anche da un punto di vista emotivo. Ti chiedo se l'hai vista in campo e come preparerai questa settimana che potrebbe essere cruciale per la recente storia del Napoli. Prepareremo come al solito. Ho visto i ragazzi che ci tengono tanto, sono un po' più tesi, non sono abituati a stare così in alto. Quando arriviamo vicini al traguardo ci sono dei cavalli che riescono a essere sereni, o quelli che non sono abituati sono più contratti perché sentono la posta in palio. Però noi cercherò da martedì di tranquillizzare, di farli giocare sereni. Non a caso avevo detto prima, noi non bisogna fare tabelle, pensare, preparare ogni partita in un certo modo, perché io so pregi e difetti e tutto il resto della mia rosa. Studio, secondo te il cavallo Mazzarri è teso o no? Ma sì, Mazzarri è abituato a vivere un campionato con la tensione, cioè cercando di mettere tensione nell'ambiente, di tenere tutti sulla corda, come dici? Dove non ce la crea. Sì, dove non ce la crea. Ripeto, io l'unica nota stonata del campionato del Napoli, che è stato straordinario, sono state quelle proteste che ci sono state a un certo punto sugli arbitri, anche da parte del presidente di tutto l'ambiente, dopo l'espulsione di Lavezzi, cioè dopo la squalifica di Lavezzi per lo sputo a Roma e il rigore dato a San Siro a favore del Milan nello scontro diretto. Quello è stato l'unico momento in cui secondo me il Napoli ha leggerissimamente macchiato il suo straordinario campionato. Sono d'accordo, ho detto molte volte, confermo e sottoscrivo, insomma, ma anche perché poi non sono sentite proteste da altre parti quando poi sono tornate indietro. Chiaro. Anche di recente, no? Come sempre. Gennaro da Napoli, buongiorno. Buongiorno, no, io penso che la squadra più forte in assoluto sia l'Inter. Volevo capire soltanto se avesse avuto Leonardo dall'inizio del campionato, se adesso poteva stare con qualche punto in più. Non credo proprio. Io penso che la squadra più forte in assoluto in Italia è l'Inter, sì. Non è il Milan, è l'Inter. Cosa pensa lei? Ma che in questo momento è il Milan e non l'Inter. In questo momento, risultati alla mano, classifica alla mano, è l'Inter. Poi se parliamo di organico, allora stiamo parlando di teoria e non di pratica. Così come parliamo di teorie e non di pratica, se ci fosse stato Leonardo fin dall'inizio, non so se ci sarà l'anno prossimo Leonardo fin dall'inizio. Mourinho ha detto sì, andate avanti con Leonardo che poi arrivo dopo, tra un po'. Non so, molto dipenderà anche da questo finale di campionato, da quello che sarà il finale di campionato del Real Madrid, per cui ancora ci sono molte incognite. Quello che è sicuro è che Leonardo ha un contratto, anche se i contratti nel calcio valgono per quello che valgono, ma ha un contratto anche per la stagione 2011-2012. Dunque i giochi ancora sono aperti da questo punto di vista. Ma secondo te ha fatto bene Leonardo? È un grande allenatore, è un allenatore da Inter, è un allenatore di calcio attualmente di alto livello? Non lo so, attualmente secondo me no. C'è un allenatore che perde quella partita in casa come ha perso con lo Schalke 04, non è ancora un allenatore della grande squadra, però questo è un giudizio che io do così da osservatore molto molto molto molto esterno, cioè non mi sembra ancora un allenatore da grandissima squadra. Detto questo, poi è vero che l'anno scorso col Milan, con una rosa diciamo non particolarmente ampia, è riuscito ad arrivare in Champions League, e quest'anno comunque adesso è secondo e potrebbe arrivare in finale di Coppa Italia, insomma, per cui Allegri invece è un grandissimo allenatore? Secondo me sì. Lo ha incoronato questa stagione? Lo ha incoronato, non solo lo ha incoronato questa stagione, credo che sia nato uno di quegli allenatori, nato dal punto di vista professionale in una grande squadra, uno di quegli allenatori che farà la storia del calcio italiano, cioè che vedremo a lungo su una panchina come Ancelotti, come Sacchi, nel senso di longevità professionale. È un allenatore che farà un ciclo al Milan importante. C'è chi scrive: ma perché siete così convinti che il Milan abbia già vinto lo scudetto? L'ha detto anche Sacchi, di stare attenti, visto che siete giornalisti dovreste saperlo che negli ultimi anni lo scudetto si assegna all'ultima di campionato. No, è vero, Napoli sono ancora in corsa, Cruciani, ti rimangerai le parole. Io no, non ma credo. Il suicidio, la questione è il suicidio, ci si può anche suicidare nella vita, non c'è come dubbio. Ha fatto l'Udinese. Domenica scorsa ho chiesto ad Allegri se perde lo scudetto. Sto parlando già di domenica scorsa, dunque siamo in presenza di una di un quest'anno, oggi il Napoli ha perso, certo l'Inter è adesso a 5 punti, potrebbe rimanere a 5 se vince il Brescia. Cioè, la partita che inizierà alle 19 è molto importante, perché se il Milan la porta a casa, io credo che domenica gioca con il Bologna, sì, che non ha nulla da dire a questo campionato, poi ogni sorpresa è possibile. Insomma, ripeto, guardando anche il calendario... il suicidio è possibile, però insomma, mi sembra francamente difficile. Però bisogna suicidarsi, cioè bisogna suicidarsi. Aver voglia di per mettere. Perdere questo campionato il Milan si dovrebbe suicidare, come fece la Lazio contro lo stesso Milan nel 99, come fece la Juventus contro la Lazio nel 2000. Non mi sembra ci siano le premesse. No, però lo diciamo anche all'epoca, ha ragione da questo punto di vista l'ascoltatore, però stiamo parlando di come uno vede il campionato in questo momento, cioè il trend di questo campionato, il Milan non scordiamoci che ha vinto tutti gli scontri diretti sia con l'Inter che con il Napoli. Cioè è credo la prima volta che la squadra che vince il campionato ha vinto gli scontri diretti contro la seconda e contro la terza. Cioè. Sì. Insomma 71 Inter 66, praticamente il Milan è già a più 6 sull'Inter prima di cominciare a più giocare. Più 7 in realtà. Esatto. Più 7 contando gli scontri diretti. E poi ripeto, guardando il calendario, domenica c'è Milan-Bologna e Cesena-Inter, e certamente la squadra più impegnata sulla carta è l'Inter. Questo prima di iniziare a giocare naturalmente, perché poi in caso di vittoria del Milan, il Milan andrebbe a 74, sì. Se non vedo male, no, e se non è calcolato già un punto dello 0-0 inizio, 71-74 significa 8 punti sull'Inter, cioè 9, insomma, sì. Questa è la sostanza. No, vabbè, possiamo dire che il pallone rotondo, il calcio è strano, 9 però. A 4 punti, le altre di Monte erano comunque 8-9 punti di svantaggio, ma, però a 7 c'erano a 7, anche 8 squadre giornate. Che davano dei segnali sì. di cedimento, quantomeno dei segnali negativi. Onestamente il Milan dal derby in poi l'ho solo visto crescere, cioè sì. Ha vinto il derby, ha vinto di Imperio con la Sampdoria, ripeto, deve ma suicidarsi è poco, perché non comunque non dà segnali di poter cedere qualcosa. Sì, certo, il Milan deve giocare a Udine e l'Udinese sarà certamente in corsa per qualcosa l'ultima giornata, deve giocare a Roma alla terz'ultima se non sbaglio. Sì. Però ormai credo che manchi questa vittoria qua, questa partita di oggi, dunque una possibile vittoria oggi è un'altra partita, poi insomma, i giochi sono praticamente chiusi. Poi tu dici che Roma e Juventus possono rientrare in corsa, io i miei dubbi ce li ho anche ma perché cosa? Visto, per la Champions? Sì, anche avendo visto la Roma oggi non brillante, tutt'altro. Però che è meno 4 con un calendario favorevole, dunque la Roma è certamente oggi è una giornata molto pro Roma, potrebbe diventare anche pro Juventus se la Juventus vincesse, perché la Juventus andrebbe a meno 5 con lo scontro diretto con la Lazio domenica, dunque potendo puntare alla Lazio già domenica con lo scontro diretto. Dunque è una giornata che se la Juventus vince contro il Catania è una giornata certamente per quello che riguarda la Champions pro Roma Juventus, con il calendario favorevole a entrambe rispetto a Lazio Udinese. Alessandra Bocci, inviata dalla Gazzetta dello Sport, ciao Alessandra, grazie. Ciao. A tutti. Ciao. Spero solo che non mi vogliate parlare delle barzellette di Berlusconi, perché sono già abbastanza arrabbiata oggi. Che è successo? Ti hanno attribuito la volontà di censurare? Che hanno fatto? Diciamo che alcuni colleghi sono stati, compresi i miei due colleghi, sono stati attaccati da alcuni giornali per avere, si presume, occultato. Ma figuriamoci. Sì, beh, insomma, non sono cose da fare. A me dà un po' fastidio perché i giornalisti sportivi passano sempre per quelli asserviti, non so che cosa. E cerchiamo di fare quello che possiamo, siamo... credo abbastanza obiettivi, devo dire anche onestamente che insomma riceviamo pressioni che probabilmente sono molto minori di quelli che ricevono i poveri colleghi che seguono i politici o l'economia, e quindi insomma sinceramente tutte queste cose mi sembrano una sovrastruttura un po' inutile. Comunque insomma, al di là di questo, diciamo che io sono qui a Brescia e immagino che voi vogliate sapere qualcosa del Milan, che per una volta va in campo con meno pressione del solito. Sì. Perché ecco, diciamo che il risultato di Palermo psicologicamente dà una mano alla squadra di Allegri. No, ma parlavamo che... Alessandra, io Giuseppe di suicidi e dintorni, io dicevo i suicidi ci devono anche essere presupposti. Palermo mi sembra che abbia dimostrato che a volte i presidenti, non a volte, quasi sempre sbagliano, perché forse se si fosse lasciato al suo posto Delio Rossi la storia del Palermo sarebbe stata un po' diversa. No, ma il suicidio sarebbe quello del Milan se non vincesse, esatto, lo scudetto, insomma, questo è il punto. Ah sì sì, vabbè, questo ormai si sta dicendo già da una settimana, sì, no, certo. diciamo che la consapevolezza è molto cresciuta dopo la vittoria del derby e tutto quello che è venuto di conseguenza. Ci sono stati dei risultati positivi, il Milan ha giocato per esigenze e questioni di calendario alcune volte, appunto con la pressione di dire ok, gli altri mi inseguono, io gioco per ultimo e faccio quello che devo fare. Questa volta gioca per ultimo, però paradossalmente positivo, perché insomma gli altri, vabbè, sì, è vero, l'Inter ha vinto, quindi in teoria aritmeticamente non è condannata, ecco, però sinceramente se il Milan vince stasera e rimane rispettivamente a più 8 e più 9, io non credo che poi si legge più 9 più 10 per effetto dei confronti diretti, insomma, mi sembra francamente troppa roba. Sì. Effettivamente sarebbe, diciamo, un suicidio moltiplicato al cubo, cioè. Un suicidio al cubo, sì è vero. Io immagino un bel pareggione questa sera a Brescia. No, io non penso, cioè no. Voglio dire, non credo che loro abbiano intenzione di anche se c'è, lo sappiamo, grande amicizia fra le società, c'è il gemellaggio che ormai è in corso da tanti anni ed è uno dei pochi che resistono nel calcio italiano. Però io non credo che queste cose possano influenzare a questo livello. Dici. Perché il Milan sa di dover dare, guarda, tra l'altro io sono qui fuori dallo stadio, sta entrando il pullman della squadra del Brescia applaudita, devo dire, tipicamente. E, oltretutto non mi sembra neanche che gli altri risultati degli altri campi siano particolarmente favorevoli alle aspettative del Brescia. Sì, è vero, quindi, che il Brescia con un pareggio non è che ci fa poi molto, quindi insomma, e sinceramente, perché già può succedere tutto, però trovo anche abbastanza improbabile, diciamo, che il Brescia possa battere il Milan, poi può succedere qualsiasi cosa. Sì, anche se il Brescia in casa quest'anno ha dato da filo da torcere a tutti, con l'Inter meritava anche di vincere, ha sbagliato il rigore all'ultimo minuto. Ecco, io ho questa idea, che in alcune situazioni i tifosi, invece di andare a rompere le scatole, parlo dei tifosi, diciamo, quelli più così neutra o comunque quelli, diciamo, fuori controllo, invece di andare a rompere le scatole, che ne so, a Cavazzin, parlo di Cavazzin perché insomma sono passati filmati su tutte le TV, li abbiamo visti tutti, sì, eccetera, sì. Ma in generale, invece di prendersela con i giocatori, gli allenatori subentrati, che per carità, poveretti, subentrano, magari possono essere più o meno bravi dei precedenti. Sì, ma anche con quelli titolari non se la dovrebbero prendere, i tifosi, cioè non è solo con quelli. No, ma in realtà fanno il loro mestiere, in alcune situazioni è successo. Lo dicono i risultati col Palermo, con il Brescia, perché il Brescia di Yassini all'inizio della stagione giocava bene, era una bella squadra, ha fatto un periodo molto positivo, poi ha avuto un periodo di calo, però sì, bisognava capire che aveva un periodo di calo che era fisiologico, sì, e cambia in allenatore, che è la cosa più semplice. No, ma comunque Alessandra, ma mi sembra abbastanza una costante in questo tempo, una costante perversa, quella di dar retta alla piazza. Infatti in questi giorni si dice Mancini andrà a allenare la Juventus. Non è dar retta alla piazza, sono i presidenti. Adesso io non dico che i presidenti vanno, per carità, messi alla gogna, però non esiste in nessun'altra situazione di calcio europeo questa cosa che esiste in Italia. Allora, prima di parlare degli stadi belli, vecchi, fanno schifo, la gente non va più allo stadio, eccetera, bisogna parlare di cultura sportiva e di abitudini inveterate e orride, tipo il Brescia fa bene le prime 5 giornate, poi fa male, si cambia allenatore. E allora di chi è colpa? Dell'allenatore che subentra, dei giocatori, dell'allenatore o del presidente? No, ma è chiaro, questo è un discorso corretto. Cioè, ci rendiamo conto che le scene viste in questi giorni, prendiamo solo l'ultima settimana, perché poi potremmo anche parlare del resto del campionato, le scene che abbiamo visto a Genova, le scene che abbiamo visto a Roma con Menez, fanno passare la voglia a qualsiasi imprenditore normale che abbia un minimo di sale in zucca di investire nel calcio, e parlo naturalmente di imprenditori stranieri, soprattutto adesso il caso della Roma è particolare perché, come sappiamo, c'è in ballo la vendita della società in questo momento. Però poi lì c'è in ballo una grande banca, è tutta una situazione. Però è vero, c'è cioè, a Genova quello che è successo a Genova è una vergogna. Non va bene. Sì, ma quello che è successo a Genova è una cosa vergognosa. Cioè, ora i tifosi fanno bene a protestare in modo civile, naturalmente, nei confronti del presidente che a gennaio ha deciso di vendere i due giocatori principali, dunque il campionato e le quotazioni della Sampdoria sono crollate, però non esiste che la squadra e un allenatore debbano essere aggrediti da quattro energumeni all'interno di un campo di allenamento. Lì c'è qualcosa che non funziona. Sì, così come è molto brutto, perché io voglio dire ho avuto la fortuna, insomma, con la Gazzetta, con le squadre che seguivo, di seguire, di andare in tanti stadi europei. Ho visto la situazione presente a Manchester United. Voi avrete notato ormai da un po' di tempo, da parecchio tempo, dall'anno scorso, indossano la sciarpa gialla e verde, che è quella dei colori originali del Manchester sì. United, contro i proprietari americani. Certo. La proprietà americana, che viene salutata a Roma come arrivano gli americani. Ecco, quando io ho sentito tanti servizi televisivi eccetera sugli americani nel calcio, beh, insomma, a Liverpool e a Manchester non mi sembra che siano stati accolti in maniera no però voglio dire, quella è una protesta, stiamo parlando di proteste però, civili insomma... stiamo parlando di proteste civili, e come ci sono state quelle scene meravigliose delle squadre inglesi retrocesse con il pubblico che applaudiva, insomma, certo, United, questi sono i nostri colori, chi viene deve sapere che c'è tutta una storia dietro. Purtroppo invece finisce tutto sulle spalle dei 10 ragazzi, dei giocatori, dell'allenatore. Alessandra, ti devo salutare che è partita la sigla, intanto ti ringrazio, così come ringrazio Giuseppe Cruciani. Ciao, Carlo. Quando torni a trovarmi? Presto, quando la prossima volta che vado allo stadio qui accanto. Sì, quasi finito il campionato, ti saluto. Ciao Giuseppe, grazie a Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleone in regia. Domani dalle 4:30 alle 6, se non ricordo male, chiacchiereremo un po' di sport. Buona serata.